Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Venerdì scorso, come accade ogni anno il 25 novembre, è stato dedicato alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il tema è particolarmente sentito dal Sor Optimist International d'Italia, che lavora in modo costante per prevenire e contrastare questa forma di violenza che genera conseguenze negative non solo sulle donne, ma anche sui loro figli, spettatori, loro malgrado. Per questo desideriamo dedicare alla tematica entrambe le puntate di questa settimana. In quella di oggi ci focalizzeremo su alcune informazioni che ogni persona è bene conosca, a prescindere dal fatto che sia vittima di violenza o meno. Senza dimenticare che la violenza non è soltanto fisica, ma anche sessuale, psicologica, assistita ed economica, non arginata solo nelle mura domestiche, ma presente talvolta anche sui luoghi di lavoro. Ci parla della legge regionale Cristina Greggio, presidente del Comitato Nazionale Consulte e Pari Opportunità Sor Optimist International d'Italia e socia del Club di Treviso. In Veneto è attiva una legge regionale per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. È stata approvata ed è entrata in vigore dal 2013. Rispondeva in quel momento ad una necessità di intervenire con urgenza nel territorio, nel istituire, organizzare, definire e anche monitorare e far lavorare in rete tutti gli operatori. Ma in particolare questa legge, l'importanza è che riconosceva per la prima volta le strutture adibite ai servizi per la violenza, e quindi in questo caso venivano riconosciuti i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello. Questo è importante che sia definito per legge, perché poi sappiamo che ogni legge ha il suo relativo capitolo di bilancio e ci permetteva anche di intervenire con un sostegno finanziario. Sono dei punti di riferimento molto importanti per le donne che subiscono violenza, perché vengono seguite nel loro percorso poi anche di uscita, perché dobbiamo anche passare questo messaggio che questo problema se ne può anche venire fuori. È evidente che c'è ancora molto da fare, ma è una legge importante che ci permette comunque di avere una piattaforma di azione comune e non agire sempre e solo in una logica di urgenza. Come Sor Optimist noi siamo, grazie anche alle professionalità di molte soci in tutta Italia, di intervenire in vari ambiti con azioni di sensibilizzazione, interventi nelle scuole, interventi nei luoghi della denuncia con la creazione di stanze dedicate, campagne di comunicazione. Abbiamo realizzato anche una app dedicata dove si possono trovare tutti i centri antiviolenza. Partecipiamo ai tavoli di lavoro tecnici e, come in questo caso, abbiamo potuto lavorare, grazie anche alla Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, alla legge. Io colgo questa occasione per ricordare che stiamo parlando di un reato. Non dimentichiamo mai che non dobbiamo fare violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. Questo è un reato. Per chi ha necessità, c'è un numero verde, ricordiamolo, che è il 1522, è un numero di pubblica utilità, è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. Un'accoglienza in lingua italiana, inglese, francese, spagnolo e arabo. Mi permetto anche di ringraziare tutti gli operatori che lavorano nel territorio, dal sociale alle forze dell'ordine, alle associazioni, alle reti scolastiche, veramente tutti, perché questo è un tema che riguarda tutti, uomini e donne. Sentiamo ora Stefania Barbieri, consigliera di parità della provincia di Treviso. Il ruolo della consigliera di parità è un ruolo che viene dato dal Ministero del Lavoro e Ministero Pari Opportunità. Noi consigliere di parità siamo presenti in tutte le province e in tutte le regioni e ci occupiamo di discriminazione di genere nell'ambito lavorativo. E purtroppo ancora oggi la discriminazione più rilevante che noi denunciamo è quella che deriva dalla maternità. Cosa significa? Una donna quando rientra dalla maternità improvvisamente si trova discriminata molto spesso nell'ambito lavorativo. E questo perché? Perché il datore di lavoro ritiene che la maternità non sia ancora un valore sociale, un valore aggiunto, ma è semplicemente un problema per l'azienda, quindi per la riorganizzazione aziendale. Molto spesso le donne vengono proprio da noi proprio per questo motivo, e quindi io invito tutte le donne che hanno questo tipo di problema, subiscono questo tipo di discriminazione all'interno di luoghi di lavoro, di rivolgersi alle consigliere di parità. Ce n'è una per provincia e c'è anche una regionale. Anche il problema della conciliazione è un problema che riguarda prevalentemente le donne, e la conciliazione per quanto riguarda i tempi di vita e i tempi di lavoro, e quindi non solo riguardante la maternità, ma anche l'accudimento degli anziani, che sappiamo bene sta diventando un problema. Su Info Salute e Società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.